domani mi guardo i cartoni animati e io dico di così, dopodomani te li racconto. Vuoi fare il cambio di età? Tu ti prendi la mia e io mi prendo la tua d'età. Va bene così, Riccardi. Ecco. Grazie, Becco. Sì, buonasera a tutti. C'è Claudio per caso qua, in questo canale? Sì, avanti l'amico Claudio. Era in ascolto, Claudio. Si vede che non c'è più. Si vede che ha chiuso, ho cambiato canale. Ciao, Massimiliano. Ok, va. Grazie mille. Buonasera a tutti. Ci sentiamo le prossime. Ciao, Massimiliano. Ok, Massimiliano. Grazie a te per essere entrato, almeno per farti sentire. Alle prossime. Ciao, ciao, Massimiliano. Vabbè. Riccardino, riprendi? Grazie Giulio, sì, ciao Massimiliano, scusa, ti ho confuso per sbaglio. Ti ho fatto una domanda, Riccardi. Vuoi cambiare l'età? Tu ti prendi la mia e io mi prendo la tua. No, Riccardino, non fare scambio. Meglio che ti prendi la tua. Esperienza forse sì, ma non lo so. Forse per esperienza, ma del resto no, fregatene. Che tu c'è tutta la vita bella davanti a te. Non accettare Riccardi, non accettare, anche perché io sono tonto con l'esperienza, non capisco l'accidente, lo capisco, figurati. No, non accettare nemmeno quello. Ma va bene. Si può qualcosa preparato per l'età? Che cosa, Robè? Non ho capito. Il popo corno, li avete preparati? Perché no? L'abbiamo preparato, sì. Tu ne vuoi un po'? C'è la partita, dico, quando ci sono eventi importanti, sempre popo corno vicino, una bibita. Ma a voi piace il calcio? Mamma mia, io non lo posso vedere. Tu devi invece giocare al calcio, che ti robustisce bene e poi vedrai che ti troverai meglio. Devi praticare lo sport, ma lo sport però un po' faticoso, perché io per sport intendo quegli sport che si fatica, non quelli che si gioca a dama, tanto per fare un esempio, o a carte, no? Uno sport dove si suda. No, vabbè, alle 7:30 io mi collego, fra un quarto d'ora mi collego perché già incominciano le discussioni, incominciano sul Rai 1 e poi alle 9 la partita, vabbè. Giulio, io faccio uno sport faticoso, mi. Che cosa fai? Dimmelo, che non lo so, Riccardi. Andavo prima, prima del Covid, circolo schermistico sassarese. Caspita, allora sì. Vabbè, già ne hai tempo comunque per scegliere, perché anch'io avevo incominciato prima con un tipo di sport, poi avevo cambiato e poi sono finito fino a 42, 43 anni e ne avevo fatto oltre 20 anni di sport a livello di federazione, però, ma comunque ormai sono passati troppi anni e non me ne voglio nemmeno ricordare. Avanti, Tony. Io sono d'accordo con il Cardino, perché anch'io il calcio proprio non mi è mai piaciuto, non mi piace. Se fosse per me avrei toccato tutti i palloni, o facciamo comunque il padre e figlio Baresi che guardavano il calcio, e il figlio li fa al padre, cioè come parlano a pari, no? Pepe, perché quei poveri scemi che hanno preso il pallone, e padre, figlio mio, quei poveri scemi se li dei milioni, e il figlio risponde, se tieni dei milioni, perché non ci compro un pallone per uno? No, il calcio deve esistere sempre, perché se non esistesse il calcio, non esisterebbero nemmeno gli altri sport, non esisterebbero, perché il calcio finanzia tutti gli altri sport, è quello, vai, Robè, capita, se ne vuole tu della tua passione, Robè Tonino, ce ne mangi. Vabbè, io sono parte interessata, dai. Vabbè, ma ho praticato, non a livello agonistico, tanti sport, io ho fatto diversi sport, non agonistico, ma per divertimento ho fatto tante cose. L'unico sport che mi sono ritirato al primo tentativo è il pugilato, anche aggiungito i colpi va a mare. Se mancasse il calcio non esisterebbero gli altri sport, perché non si potrebbero mantenere, perché il calcio che finanzia tutti gli altri sport. Sì, comunque metti un po' di gasolio, non è il gasolio in officina, Robè, perché ogni tanto zuppica quel microfono. Vabbè, adesso già è solamente un piccolo allarme ha fatto, niente di particolare. Avanti Riccardi. Facciamo andare avanti Gianni, che è disperato, nessuno lo fa entrare. Gianni, non lo vogliamo, anche non lo vogliamo. Gianni, ci senti? conoscenza. Dice sì, dice sì, già ti ho visto. La mazza ursa. Vabbè, non, ma il calcio non piace manco a me. Mio padre era un mio appassionato, mio padre era proprio un accanito, era interista, si guardava le partite al televisore. Poi a chi lo disturbava, ti tirava tutto pane, quello che c'era. Ma che sei l'indipendente, Gianni? Che tu sei l'indipendente con quel microfono? Sì, padre ragazzo. Poi ve lo spiegherò naturalmente perché ho odiato il calcio. Me l'hanno fatto odiare, basta. Vabbè, io continuo a rimanere con X perché io sto preparando la mia cosa buona da mangiare. Ci sentiamo dopo, ti spiegherò bene. Ma mi sta dicendo Giulio, io adesso ho cambiato microfono. Possibile che stia uscendo male anche con questo microfono? Ma forse non si sente bene, non lo so. No, già sta uscendo bene, no? Non c'è niente da dire. No, ma solo per un istante, forse ti si è allentato un attimino la pressione sul PTT, niente di particolare o robe. Va bene, dai, mi stavo preoccupando, adesso boh, qua avevo tutto a posto. Questo comunque è un altro microfono rispetto a quello di prima, è diverso, quello ne ho due, ne utilizzo due su questo apparato. Ok, Riccardi, tu dovresti alzare poco a poco la radio, perché è anche un po' sporchina, non ho capito cosa hai toccato, sinceramente. Come va? Un'altra prova? No, stai saturando di brutto, io non so cosa hai toccato sul microfono. Adesso sei incomprensibile. Sono incomprensibile? Ma con che cosa stai uscendo? Con l'Alan 43? Sì, con Midland Alan 43. Ma il microfono, ieri abbiamo fatto le regolazioni, ha fatto il microfono, il mic gain del microfono. Il mic gain del microfono è a 2. E quello dell'apparato a quanto? Non è questione di microfono, Robè. E quello dell'apparato a quanto? Del Midland, il mic gain è praticamente quasi ad 1, poco più di 1, il car è a 4. C'è qualcosa che non quadra, guardate anche le alimentazioni, non è possibile che ha avuto un peggioramento così, ieri era regolato a 2, il microfono 2, adesso 3 non mi ricordo, e quello dell'apparato a 2, ma forse era un po' di più, era forse a 5 il microfono e 2 l'apparato, non sta uscendo bene Riccardi, c'è qualche problema, controlla tutte le tensioni e gli assorbimenti, e poi infila bene, controlla, verifica tutto il resto, la potenza, il carrier è a 4 ed è... Aspetta che adesso attacco l'USB e quello l'altro baracchino che ho che si assomiglia a questo e visto che è una buona radio quello. Aspetta che provo a regolare un po' di... Così sto andando male, saturando, sto andando male. Sta andando male Riccardi, chiedo conferma anche a loro, no? Speriamo che non sia io il problema. Avanti, l'avete ascoltato bene o male, Arica? Male, questo passaggio l'ho sentito meglio, non bene ma meglio. Riccardi, cos'hai toccato? Da alza per il microfono adesso solo. Ma che è troppo basso, prova a alzarla ancora se ce n'è. Scendendo adesso, c'è tutto a 4. No, non sta scendendo male. E secondo me è una questione allora di che sta uscendo fuori di frequenza. A me poco fa mi è successo, deve essere il caldo, cosa ne so, nell'ala 980, nel magno 980 ha cominciato a camminare frequenzimetro veloce. Riccardi, adesso io purtroppo ho di radio, però è completamente distorto. Io non so se hai toccato, sei sicuro che il microfono è a 2, quello dell'apparato. Ma poi ditemi, ma ci avevamo Natalina, ma ancora c'è Natalina, ci siamo dimenticati di lui, Natalina. Già sono qui, mentre voi parlate io agisco. Che cacchio agisci? Cosa stai combinando? Allora, mangiando. Rustigando sta. No, sto misurando. Mi ho fatto quello spezzone per l'SDR, però non so usare il programma, capito? Non ci riesco. Come va adesso? Adesso va molto meglio. Adesso sto usando l'SDR. Adesso sei tu. Già lo so, perché questo è bello, però mi piace di più il Midland. Vabbè, sono radio diverse, comunque con questo almeno ti ascoltiamo bene, forte e chiaro, come si dice. Ecco Aro, di nuovo Giulio a te il mic e poi fai la girare in ordine a Tonino e a Gianni. Sì, lo facciamo subito per Tonino, perché mi allontano un attimino. Vai Tonino. Tonino è con X. Riccardi, ti è arrivato poi quell'apparato? No, ancora no. Ah, ok. Sono curioso di sapere come esce. Quel microfono mi piace, se non ti piace a te, dalla a me. Subito, lo proviamo quando arriva e lo vedo adesso. È il mio unico pensiero darlo a te. Grazie. Non è enorme la notte, già. Ma che come di tu, che l'ho fatto comprare io quell'apparecchio. Che apparato stiamo parlando? Quello Zodiac? Esatto. Oh, già bello, già un bel apparato. Ci mancherebbe. Ok, Riccardo, non siete passati però a prendervi con le istruzioni del trio? Abbiamo dovuto fare, il camper ci sta prendendo la maggior parte del tempo sistemandolo, perché stava dando problemi, abbiamo dovuto andare a prendere alcuni pezzi e quindi non siamo riusciti a fare niente. E cioè, problemi di che genere? Elettrici, stava dando problemi, abbiamo dovuto comprare dei componenti elettrici, lo sa babbo, io non me ne intendo molto. Ma il coso, la parola l'ha sistemata la veste? Sì, oggi l'abbiamo sistemata, adesso tutto a posto, si vede la TV, va bene. Avete fatto da soli o vi ha aiutato Fabio? No, ci siamo messi un aiutino. Ci siamo messi un aiutino, non capisco. Con Fabio abbiamo risolto. Infatti non ne dubitavo, ma già diciamo non era niente di complicato. Una volta che eravate sicuri che c'era il segnale con lo strumento, è un attimo collegarlo, non c'era problemi. Ok, cosa volevo dire? Comunque io domani ci sono sino alle 10, se volete passare, dite al tuo babbo, non c'è problema, così c'è lo schema elettrico, il codice delle valvole e tutto di quello lì, se eventualmente dovete fare qualche manutenzione profonda. Ok, e poi ricordati sempre il ricevitore, a proposito, se lo vuoi portare così faccio le prove e ti dico come va effettivamente. Sono curioso proprio se era un problema di zona o di antenna, quello quando l'abbiamo ascoltato. Sappa, già se l'ho porto. Comunque, ho guardato tutti i modelli del trio, non ce n'è uno con l'autoparlante suo. Cioè, tutti i modelli che ho guardato hanno l'autoparlante esterno che gliel'hanno messo loro, perché la fabbrica e la trio non te lo dà. Infatti il tuo è modificato, non il mio. Tu dici, io invece guardo le istruzioni, vabbè dai, posso, magari può essere un'altra versione, il mio non lo so, perché il mio era 220, forse per il mercato europeo, quello tuo magari è per il mercato americano, non lo so, non insisto perché non lo conosco, però il mio è originale, non è stato modificato, perché c'è anche nelle istruzioni, si vede l'altoparlante. Non lo so. Perché so che c'è l'autoparlante esterno suo, la binata, però se guardi, ho visto un video del trio model, e vabbè, sai, così la poi, tutti si hanno messo un autoparlante esterno, non ce n'era uno con un autoparlante suo, tutti ce l'hanno messo per conto loro. Certo, l'altoparlante di linea anche con i K, se voi ti metti l'altoparlante di linea con i Drake, con gli Alicraft eccetera eccetera, ti danno l'altoparlante, ti puoi mettere il trasmettitore vicino al trio, questo qua puoi attaccare anche il trasmettitore vicino, interfacciarlo, lo usi come ricevitore e l'altro come trasmettitore, è più bello se c'è l'altoparlante, se riesci a trovare è una cosa veramente bella. Quello del 940 che ho io, l'altoparlante, c'ha lo stesso colore del trio, peccato che sia un po' più basso, però il colore è identico, con i tastini cromati eccetera eccetera, però il colore del coso, se dovessi trovarne uno guai, me lo metto da parte e lo abbino al trio. Ma ti posso dire, suona bene anche con l'altoparlante suo originale? No, ma non è quello, stavo dicendo che tutti i forum che ci sono letti stavano chiedendo se l'autoparlante mettere esterno è da 4 o da 8 ohm, perché tutti si sono ritrovati con un trio senza cassa, perché se non metti una cassa esterna non si sente nulla. Ma esiste qualche persona senza l'altoparlante? Se avete ricevitori, la maggior parte ce l'hanno tutti l'altoparlante, sarebbe un controsenso. Comunque non insisto, perché è un apparecchio nuovo anche da parte mia, nel senso, quello che c'ho io ce l'ha ed è originale, perché io l'ho aperto, l'ho controllato tutto, non è roba modificata. Ok, andiamo avanti, vediamo un pochettino. Doppio room, avanti a te il mic. Io stavo sbagliando il microfono. Anzi, druppi, no, che non se ne comprende più nulla. E allora, Riccardino, ne hai visto altri apparati che ti piacciono? Sì, molti, mi devo comprare e voi niente, che mi sbaglio il microfono e poi vorrei dirlo mio. Ascolta, ma che sito vai per vedere questi base? Che anch'io me ne voglio comprare uno di base. Uso subito.italia, poi news. consiglio, appassionati, vabbè, lo consiglio, del CB Compassione 70-80, Mercatino Radio CB, mi aspetta che li guardo, i gruppi che ho, che sono iscritto. Amico CB, CB con lo spirito degli anni 70-80, Mercatino Radio Usato Shop e basta. Ce li ho tutti quelli lì, io li controllo tutti quelli lì e non ho trovato ancora quello che piace a me, vabbè. Ma lo volevo prendere un base, perché ne ho uno solo, a me piacciono molto i base, l'avrei fatta tutta la parecchi base la mia stazione, però ci ho pensato dopo, dai. Comunque ho degli apparecchi abbastanza efficienti. Passiamo nella parte a Giulio, vai Giulio. Sì, sono appena rientrato, ma vi lascio adesso perché devo andare alla televisione, anche se ce l'ho qua davanti, però o guardo la televisione o parlo e poi devo seguire lo sport, che adesso inizierò il dibattito sul canale 1 e poi alle 9 la partita. Per cui vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per questo. Ciao Roberto, ciao Gianni, Tonino se sia ancora all'ascolto, Natalino, Claudio se sia all'ascolto, Robertino e quanti ce ne stanno, e Franco già mi ha capito lui che... Saluto a tutti, per me QVT dopo il vostro finalino. Vai Roberto. E ciao Giulio, ben sentito, buon proseguo di serata, buona partita, speriamo che sia interessante, che non sia una baranuglia, anche infatti per le 9 vado a vedermela. Ok, cosa volevo dire, dato non ce n'è. Avanti Gianni. Ciao Giulio, buon QRT e buon divertimento, dai. Avanti Riccardino. Ok Gianni, anche a me stai contagiando, ho cliccato il microfono sbagliato, quello del Midland. E niente, saluto a Giulio e metto il cambio. Ciao Giulio, buon QRT, buon tutto, alle prossime. Ma a me la cosa mi sta capitando ultimamente quando sono qua in radio già. Se per esempio mi arriva una telefonata e aspetto a che risponda, tipo quando sei col baracchino, come tipo quando... Sei zitto, sono abituato a lasciare parlare, per cui gli do il tempo di parlare, aspetto che finisce e poi parlo io, tipo col baracchino, abituato così. Beh, non è male, parlare solo sull'altro, non capisci nulla anche al telefono. Io per dire, ho una sorella che ha questa abitudine, mentre stai parlando tu parla anche lì sopra, ti sovramodula, perché ha questa foga di parlare in fretta, è una cosa che non si crede, vabbè. Natale, facci sognare. Di cosa ti faccio sognare? Ma ho fatto lo spezzone, ho collegato la chiavetta, vabbè, però non riesco a far funzionare il programma, boh. Si muove l'analizzatore di spettro, però non so farlo funzionare. Ma te l'ha caricata la pagina? Lo vedi tutto il coso? Il ricevitore virtuale? Vedo. Nessun apparecchio, non mi esce nessun apparecchio, però esce questa roba qui con l'analizzatore di spettro. Poi non lo so se deve uscire altra roba. Ma esce solo l'analizzatore di spettro, le frequenze non ti appaiono in alto. Eia, sì, sì. C'è un tasto play, prova a schiacciare quel tasto lì, ci dovrebbe essere una freccia, tipo quando vuoi ascoltare un audio su internet. Ehi, l'ho fatto, però non riesco a farlo funzionare. Boh, non so come cercare le frequenze, cosa, le scrivo col mouse io. Tu allora batti sopra il numero, per dire c'è scritto 2, ci clicchi col tasto sopra e vedi se con le frecce sali o scendi, oppure se puoi scriverla direttamente la frequenza con la tastiera, ma normalmente ci clicchi sopra, con la freccia su sali e con freccia giù scendi, se è quello classico. Poi guarda se c'è il mute, inserite il mute, e poi prima di tutto devi vedere se stai ricevendo, perché se non ricevi l'analizzatore di spettro, segnali, vede. Sì, si muove l'analizzatore di spettro quando gli schiaccio play, capito? Però non l'ho messo anche su questo canale, non ricevo niente. Su che banda sei tu? L'ho messo qua, in questo canale l'altro giorno. Al volume al massimo? Sì, si sente. Il QRM si sente, capito? Se si sente il QRM è già una cosa buona, però bisogna vedere come si è impostato, che tipo di modulazione si è impostato, se che filtri c'è inseriti, perché se tu non hai dei filtri per dire, se sei in AM magari quello c'ha un tipo di cosa, d'enfasi o cosa del genere, non pigli nulla, i picchi delle modulazioni ci sono, vattene sulle bloccate, vai 88-108 e vedi se sta ricevendo, che sono le più facili da ricevere. 88? 88-108, le radio FM, le radio libere o nazionali, metti una frequenza 90, dai, o 90-200 che è molto forte, vai su quella, metti FM stretta e poi vedi cosa succede. Hai dato rispetto se sta funzionando, se c'è segnale in antenna, dovresti vedere tutti i picchi di tutte le radio. Ma proverò là a vedere. Ehi, dai, già divertente, dai, se ti metti a fare già divertente. Ok, vai Riccardo. Ehi, scusate, mi dico, perché clicco il tarne più 2 invece che cliccare il tarne più 3, capito? E mi dimentico, e sbaglio il microfono. Mettici un cappello sopra, una busta di mondezza, spostate, ma cosa puoi fare? Vai già. Cappa. Ehi, succede, quando hai tanti apparecchi ti succede, succede anche a me. A sbagliare il microfono, figurati, dopo tanti anni, e mi succede. Poco fa stavo premendo l'MP più 5 quando c'avevo il microfono da palmo da premere. E vabbè. Succede. Ma io c'ho anche l'età. Ma stanno attenti a dividere gli apparati, io li ho separati, ho fatto due zone in coso, zona ricezione e zona trasmissione, in modo che sono dedicati i microfoni tra da una parte e poi gli altri li tolgo uno per volta quando uso questo apparato. Ma io microfoni misti c'ho sia da palmo che da base, capito? E quindi sono affiancati agli apparati, quelli da palmo. E gira se cosa mi attacco l'ARA 48, dai, per divertimento, dai, lo provo col microfono a palmo, cambio apparato. Ehi, ma metti il MB più 5, se no c'è basso. Ehi, scusate se ve lo chiedo, ma per caso avete sentito Uros stasera? No, negativo. Perché lo devo chiamare sempre, io pure un attimo esci di casa perché le pareti spesse di 80 cm, quindi il segnale non arriva dentro, così dice, e quindi non riesco a chiamarlo. Poi il telefono di casa non sta andando, quindi è fuori dal mondo. Oh, come esce questo? Mi ascoltate? Sta uscendo questo alla 48? Ehi, già sta uscendo. Com'è, una cagata? Si sente che è diversa proprio. Dato un parere però, se tu ti scappassi, Gianni, avanti. Prova, Robè, non l'ho sentito bene, dai. 1, 2, 3, prova canale 10, questo è un maracchino giocattolo. Non va male, dai, è presente la radio, però si sente anche un microfono normale, però già è abbastanza buona la radio, non è un baracchino giocattolo, quello è un baracchino che c'ha la sua storia ed è anche molto robusto come baracchino. Vabbè, questo è un M93, diciamo un po' più su della metà come modulazione. Prova a alzarlo, vedete. Ora questo è quasi al massimo, penso che stia gracchiando o no? Così esce bene, questo è gracchiato, così esce bene, con l'M93 mi serve. Questo ho modificato Luca del Monte. Cosa mi ha fatto? L'ha cambiato la capsula. Ehi, questo è quel baracchino che ce l'ho da gennaio 2005 e con la sua batteria originale sta sempre andando, mai cambiata. Me l'avevi detto, controlla che non abbia tutto acido, se no ti rovini già tutto. No, se toglie acido vuol dire che non funziona. Di una bella stazione base che sarei interessato. Cosa hai detto, Ricca? No, che già stanno bene comunque quella stazione. Stavo dicendo a Gianni che gli ho mandato una foto, se ha voglia di alzarsi, perché sappiamo tutti che è un pochino pigrone, se ha voglia di alzarsi a vederla. No, ce l'ho qua il telefono a fianco. Meno male, se fosse stato in cucina sicuramente non l'avresti preso. Comunque la radio è chiara già questa. sì, già è chiara comunque. Però il segnale è molto più basso rispetto all'altro, così? Adesso se il mio smitter non sbaglia 6, solo Santiago 7. E l'altro quanto era? L'altro è di 9,20. Però è molto più forte la radio rispetto a questa. Non parliamo di nitidezza, di qualità, cioè di fedeltà parliamo. Aspetta, non ti ho capito qualcosa? Questa radio, tu che mi conosci dal vivo, è molto più fedele o peggiore dell'altra rispetto alla realtà della mia voce? No, questa ti inganna, non è fedele. L'altra è più fedele? Sì, l'altra si sente che è più fedele, che riconosco. Con questo te la fai proprio diversa rispetto a quando ti conosco. Ok, questo lo sto facendo camminare ogni tanto e me l'hai metto in moto. Cosa ne pensi? Aspetta, adesso provo un altro baracchino, se mi ascoltate, un attimino. Ehi, Gianni, dimmi. Vabbè. Ehi, Gebbè, non lo sai chi è? Lo stesso che ti ha venduto quello là. Già lo so che è sempre lui. Da cena, sale. Petro, vai. E questi. Ho pigliato un tubo. Eia. Sto provando l'SDR, però non riesco a farlo funzionare. E vabbè, quando ci troviamo con più calma con Roberto lo vediamo, là. A farlo funzionare intanto. Gianni. Stavo guardando degli apparati che mi hanno mandato, aspetta un secondo. Prima li devo stazionare io. Se non mi piacciono li posso dare a te. Se mi piacciono tu non ne prendi, vero Natalia? Sto uscendo di radio? Certo che sì. E sono mezz'ora che sto chiamando, perché non mi rispondete? Adesso ti ho sentito, prima non si sente. Stai uscendo a Scorrici. Sono io. Sta uscendo a Trutti. Com'è? Troppo forte la radio? Questo è il fermo gombe, questo microfono. No, roba, è proprio di radio, non c'è, sentiva. E adesso come sta uscendo? Adesso va bene. Ma come passa la radio? No, non va bene. Ma è meglio di quello alla 48 è questo? Questa. La parola, sì che è meglio. Più chiara. Posso alzare un bemi questo? Questo è il terno più 3 col pace. Stai usando il pace. Pace bene a tutti. Pace fratelli, com'è già? Datemi un controllo, sono come mezz'ora, sto provando. La radio è chiara, roba, te lo sto dicendo, è più chiara dell'altra. L'altra era amplificata, però era un po' sporca come radio, invece questa è bella chiara. Ma è più forte dell'altro? Sì, è più forte questa. E il segnale com'è questo? No, dico, anche il segnale è più forte, con l'altra e il sotto, con questa mi sei arrivato anche a 9. E questo qualche fratello in più tira fuori questo pace, dai. Ogni tanto è bene farli camminare, dai. Questa è la fermogomba di tempo, così il microfono. Io non la chiamavo, non mi rispondeva, ho detto ma cacchio sto uscendo, e poi ero senza batteria, per quello che non uscivo. Mamma mia, Robè. Mi ero convinto, ho detto ma cavolo, ma cosa sta succedendo qua? Perché non esce questa cosa? Poi alla fine ho guardato, ho detto ma qua manca la batteria. Gianni, come sono belli questi apparati, li posso prendere io? Hola? Hola? Ma ti piace questa modulazione, Riccardo? Sì, bella. Come ho detto, rispetto all'altra, secondo me dice a 0 alla 48. È più naturale questa come modulazione? Sì, si sente, questa è più naturale. Va bene, questo l'ho usato per tanti anni, questo baracchino è sempre stato il mio preferito. L'unica cosa è che in recensione è una cagatina, se ci sono segnali furti devo attenuare, se no diventa mutto. Papà, Gianni ormai si è addormentato e possiamo andare avanti, quindi avanti Natali. Non riesco a ricevere. Ah, neanche 80-808 ricevi? No, ho provato anche a 94-800. Nuda. Ma l'hai passato FM stretta? Ehi, ho provato con tutte e due. Ma cosa c'hai? SDR Shuttle? Ehi. Quello è un po' complicato, anche io ho trovato un po' di difficoltà, infatti pure alla fine ho lasciato perdere. No, mi prendo io appena ho qualche spiccioletto da spendere, mi compro quel ricevitore che dico io, con due ingressi, non più questa cacca di chiavette, sono un rompimento di scatole. Perché a momenti funzionano molto bene, altri momenti saturano, secondo me stava saturando quella che ho io. Ma programmi altri ce n'è per farlo funzionare? Non lo so, c'era coso, però dice che ha avuto problemi, Claudio Di Muros ha avuto problemi, non so, col computer o qualcosa, così mi ha detto. Però penso ne esistano altri, devi avere su internet. Io, guarda, di computer sono un pochettino ignorante, non ho molta praticità, faccio le cose elementari, ma proprio zero. Io ho difficoltà a usare i programmi se non li conosco, però tutto l'altro già me lo faccio io. E tu come mi ascolti, Natali, con questo vecchio pace? Benissimo, ti ascolto benissimo, sto riuscendo molto bene. La radio è chiara, pulita, o noti di difficoltà, disturbi? Non ce n'è disturbi, va benissimo. E questo, teoricamente, io posso alzare ancora il volume. Rispetto a loro, più basso sono di modulazione. No, è alta, va bene. Ok, Riccardi, riprenditi il mic. Ehi, hai preso il mic? No, già, come ho detto, molto meglio. Lo rispetto, mi piace questa modulazione. Ehi, adesso vediamo se sono esattamente accordato, fammi vedere. No, vabbè, le stazionali dovrebbero essere qua, c'è tutto un giro di fili di controllo accordatori, quanti watt sta tirando fuori questo apparato? Sì, ci avrà 7 watt più o meno. Questa è manda laterale e spinge parecchio. Non ce l'avete voi l'SSB? C'è qualcuno che ha l'SSB in questi dei vostri baracchini? Solo io. Tu ce l'hai, Natali, manda laterale? Sì. La vogliamo provare in banda laterale, che è da un bel tempo fermo questo qua. Chi ce l'ha? Riccardo, ce l'ha in banda laterale? Sì, ho MSSB. Allora andiamo USB, Uniform, Serrava e Bravo. Cosa hai detto? Scusa, non ti ho capito. USB, Uniform, Serra Bravo. Thank you. Allora, ci siamo, signori e signore. Via. Siamo qua. Siamo tutti qua. Ok, facciamo una chiamata generale sul canale 10, se c'è qualcuno che vuole partecipare alla conversazione, se no faccia come vuole. Di nuovo, pausa due secondi e vediamo un po' se entra. Avanti, chi vuole entrare? Se vogliono entrare, fanno un break. Questa ancora è in cosa, manda laterale. Comunque non è male, dai, già questa modulazione, meglio dell'altra dell'Alan. Eia, sì, quello è talmente più chiara. Eia, cosa volevo dire altro? Non ce n'è, vai Riccardi. Eia, vado io, un attimo, ritorno subito, mi stanno sempre chiamando, non capisco perché, quando metto alla radio mi chiamano ogni 5 secondi. Devo dire che sei ricercato. Questo aveva 50 anni questo baracchino, però sta ancora funzionando. Non gli ho mai fatto niente, sta sempre andando facendo le corna, magari bisogna dargli un po' qualche stuzzatina al clarifer, perché come lo toccavo poco poco cambiava parecchio, per cui vorranno puliti bene con quelli spray per i connettori. Cava cava, spray per contatti, quello asciutto. Sì, già ce l'ho, già lo tengo, ma non ho tempo di smontarlo, voglio togliermi il coperchietto. Ma è nuovo, non so se l'avete mai visto, questo qua me l'ha fatto prendere Claudio Sparviero. Subito dopo che cacciavo sempre il portatile, ho detto no, mettiamo un baracchino serio, e avevo pagato 110 euro, però è andato alla grande, sempre andato, non mi ha dato nessun problema. L'unico problema, purtroppo, è quando, come si chiama, ci sono segnali furti, si ammutolisce e devi chiudere il coso, l'RFG, non ha filtri. Per me invece il 980 poco fa si è messo a camminare per frequenzive, troppo si è scaldato troppo, si era troppo caldo, non lo so, dopo pranzo. Si è messo a correre il frequenzile, trova a correva in una maniera, poi l'ho spento, l'ho lasciato riposare, l'ho riacceso e non l'ha più fatto. Allora, muovi il manopolone, quello di cambio canale, l'ha fatto anche a me qualche volta un altro apparato, muovilo un pochettino avanti e indietro prima di accenderlo e poi lo riprovi. Qualche granellino di polvere magari c'è entrato sul commutatore, quello che fa girare i canali. No, adesso non lo sta più facendo, io sto usando sempre quello, ce l'ho già da un bel po' acceso e non l'ha più fatto. Io capisco quando fa 45-50, quello lo può fare perché cambiamento di temperatura lo fa, come scalda, poi si ristabilizza bene, però quando cammina tutto il frequenzimetro allora mi impressiono. Ok, vediamo se Natalino adesso c'è rientrato, ci sei Natalino? Sono qua, non c'è problema, sto vedendo una situazione qua. Situation, una canzone degli Yazoo. Telegiornale, ci sentiamo dopo, magari più tardi. Statemi tutti bene. Vabbè, rimango un pochino, mangio qualcosa e poi mi guardo la partita, sperando che sia interessante, se no ne spengo tutto. Vediamo un po' se c'è qualcuno. 10, chi vuole entrare, avanti con la buonasera. Ora. Avanti, chi vuole entrare? Vabbè, l'ho messo in moto, l'ho messo su questo canale, gli ho girato l'antenna, è nuda. Ho capito, hai girato l'antenna? Ho commutato, gli ho messo l'antenna di qua, ma non riceve un tubo. Ma scusa, l'antenna è già collegata bene, usa l'antenna del baracchino, fai la prova con quella. Ehi, quella lì. Il telefono, scusa. Riccardo. Chi è che mi chiama? Fa un passaggio lungo a vedere. Ho detto passa? Vai, un passaggio lungo. Che voglio vedere se ti ascolto col computer. Aspetta, io non ho capito, ripeti, scusa. Ho detto, fai un passaggio lungo. Che voglio vedere se ti ascolto col computer. Cappa, vediamo se mi ascolti con il computer. 1, 2, 3, prova radio. Vediamo se mi ascolti con il computer e così ci mettiamo tutti in cuore in pace. Mi sono rientrato, adesso sono un attimino al telefono. Cosa hai detto, Rita? Oh, mi stavano chiedendo di fare un passaggio lungo. Ho capito cosa hai detto. Mi stavano chiedendo di fare un passaggio lungo. Ma dove? Qua su questo canale? Sì, su questo canale me l'hanno chiesto. E io ero, ti ho chiesto di fare un passaggio lungo per vedere se ti ascoltavo col computer. Nulla, vabbè. Natali, scusa, tu stai partendo dalle cose più comode. Mettiti le stazioni broadcasting 88-108, le prove le fai di lì e vedi se l'analizzatore di spettro ti fa vedere tutte le frequenze, tutto lo spettro, dovresti vedere tutti i picchi di cosa, dei segnali. Se non vedi niente vuol dire che non hai antenna. No, già li vedo. Cavolo, se gli ho messo l'antenna di qui per ascoltare a Riccardino. Ho girato il commutatore e gli ho messo l'antenna che è collegata alla penna. L'antenna del baracchino. Boh, non so cosa dirti. Cioè tu vedi, sei andato 88-108 e vedi tutti i picchi delle radio private e quelle nazionali. Adesso me lo metto lì, a 88-108. Mettiti su un picco, vai a prendere 94.2 che è una delle più forti in assoluto, mettiti sopra di lì, ti centri, scrivi la frequenza 94.200, poi metti FM stretta e poi schiacci il tasto play e togli il muting se ce l'ha. Oh, ascolta, l'FM stretta è NFM, così è. Ecco. La frequenza è 92 e 200, così è. 92 e 200 non c'è niente, metti 94 e 200. Qui non è male il patch, dai. È ritornato ai vecchi albori questo baracchino. Quante ore di modulazione ha fatto questo guai? Beh, si vede, si sente qualcosa. Ah, ci siete? No, volevo, scusate, ero, sto vagando di stanza in stanza. Volevo chiedere a Natalino che chiavetta era, che marca era. E la marca non c'è. Allora, 94 e 200, così è. Ehi, a me pare Natalino, adesso non sono abituato a sentire le modulazioni quando sto parlando del baracchino. Ti piace questa radio, Mara? Sì, sì, stavo ascoltandola prima, è bella forte. Prima avevi chiesto, ma è bassa? No, no, assolutamente, tutt'altro che bassa. Sì, sì, è buona, niente da dire. Aspetta, fammi un altro passaggio. E sono a 50 cm dal microfono, tieni presente. Questo è un apparato base della Apache, AM bande laterali, col microfono su, col microfono Tanner più 3B, Mickey Gain del microfono è diciamo un po' più su dalla metà. Sì, sì, bene, bene, devo dire. Una bella timbrica, dai. E il mic cos'è? Zeta oppure Turner tipo? No, è un Turner più 3B. Vabbè, allora c'è anche un signor microfono anche dietro, anzi davanti, quindi è buono, buono. Ehi, no, credevo che Natalino prima stesse usando l'SDR quello online, no? Tipo Roma 4, invece c'era proprio la chiavetta. Ebbene Natalino, le senti le radio FM? Nulla, non pervenuto, dai. Va bene, vi saluto che sto facendo roba, fate girare, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ben sentito, rimango ancora qualche minutino, poi vado a mangiarmi qualcosa e poi mi guardo sperando che sia una bella partita, dai, se non mi addormento prima, vai Riccardi. Oh yeah. Qua o si parla in tre assieme o non si parla, allucinante. Sai che ho parlato sopra di qualcuno? No, no, in generale Robè, in generale, cioè riprendono in tre, in quattro assieme oppure quando rilancio non ripiglia nessuno. Ah così, è segnale come molto si è abbassato dalle tue parti Marco. Robè, non mi ricordo esattamente il tuo segnale, che ricordi tipo 925, credo che sia comunque lì, cioè qua lo smitter è roba di 10 mm che ha la differenza, non te lo saprei dire. Comunque la radio è 5, non mi porto molesta appresso. No, sembra di no, sente appena l'effetto dell'amplificazione, non un po' l'effetto leggero stanza, ma buona, niente da dire. Ok, Riccardi ci sei? Tutti fuggiti sono, Natalino è risolto. Niente, 94 e 200 sono e niente. Il mute dove si trova? No, se senti questo fruscio il muting è disinserito, si sente fruscio. Guarda, si sente. Si muove pure. Allora io dubito quello che tu vedi analizzato nel specchio, perché non è possibile che a 94,2 non senti niente. Cosa vuoi? Ti porto una fotografia. Si sta anche muovendo. Allora, specchio, il rumore si deve muovere, secondo me questo è solo un rumore, i picchi, devi vedere i picchi alti fissi, non muoversi, lo specchio, diciamo, tutto con la banda lì dove stai ascoltando, devi vedere sotto il rumore che si muove, dove c'è la modulazione, deve essere la linea alta, verticale, fissa. Nulla, allora, bisogna che lo veda uno che lo conosca questo programma. Riccardino, fuggito. Adesso mi sposto un attimino sul canale 11, scusate, voglio vedere se questo accordatore sta funzionando. Ok. Test, test, sì, monitor c'è. Comunque per adesso Natale è a posto, cioè i driver sono giusti, la chiavetta la riconosce ovviamente. Eia! Solo che non riesco a farlo funzionare, capito? Ascolta, che antenna hai messo? L'antenna al baracchino, gli giro. Back. E TV, volendo. Avanti back. Ciao Gianfranco. Interrogativo, che chiavetta stai usando, Natale? Buonasera a tutti. Quella che ti ho detto l'altra volta, che marca non ne ha, però c'ha me. Adesso l'attacco. Allora c'è scritto DAB più FM più DVB trattino T. C'è scritto solo quello nella chiavetta. Quindi è una chiavetta DAB anche. E che programma, con che programma la stai pilotando? SDR Sharp, però non riesco a farlo funzionare, boh, ora la configurato a che cosa, non lo so. Senti la parte della pagina, di tutto quello che tutto vuol dire che è configurata, c'è qualcosa che non stai facendo bene? Evidentemente sì, ma siccome io non lo conosco questo programma, non lo so cosa fare. Io ce l'ho col programma. Vabbè, ma sei tu, perché io non ti capisco. Come non mi capisci? No, no, non a te Natalia, a Roberto, mi ha sembrato lui, ma non lo capisco, c'ho la radio tutta strappata. Sei tu, Roberto. Sto provando un altro bracchino, stavo uscendo bene, perché problemi ci sono. Ciro, beh, ha iniziato a fare tutta... così, uguale. Vabbè, mi sono spostato di un po' di tempo fermo, volevo pulirlo, soffiarlo e metterci un po' di coso, di quello spray per i contatti. Adesso ancora male, sto uscendo. Allora, negli ultimi secondi sì, prima no, era proprio... Beh, vabbè, già capito. Vai Gianfra. Effetto di soframodulatore, cioè praticamente stanno entrando troppi microvolt in quel modulatore e quindi strappa, è proprio tipica modulazione strappata, interrotta per protezione. Guarda adesso cosa succede? Adesso inizia a essere un'altra cosa. Probabilmente c'era qualche rientro, perché qua ci sono un po' di cose collegate, adesso ho messo diretto, l'antenna diretta sul magnum, devo fare un'antenna in accordo, però non sta andando bene con l'accordatore, dai, c'è qualche problema, adesso sono diretto, l'antenna diretta va bene? Non ancora, è sempre presente, molto meno rispetto a prima, ma c'è sempre un effetto di strappo. Magari è troppo alto il microfono, aspetta, abbasso un pochettino, guarda un po' adesso, ho abbassato qualcosa. Ma che lo fa lo stesso. Deve essere a livello del modulatore. Che c'è qualcosa che non va. Confermi Marco, e non vorrei essere io che magari ci sono qualche filtro troppo stretto, ma non credo. Perché gli altri li sento bene. Non lo so, poco fa mi hanno detto stava andando tutto perfettamente, anzi me l'hanno anche apprezzata la radio, boh, stranissimo, perché qua adesso guardando anche il livello di stazionario sono molto basse. Il microfono sembrerebbe che sta uscendo, la modulazione, boh. Ma funziona con le stazionarie, diciamo, quando si tratta di questo tipo di modulazione. C'è una saturazione notevole e quindi tende a strappare. Marco, confermi? Sì. Sì, anch'io temevo che fosse da me, dall'apparato. Allora acceso il ricevitore Uniden e arriva uguale. Robetto, l'avrei fatto sentire, a momenti esci bene, a momenti compare, a momenti è anche molto marcato, però non te lo posso mandare, se qualche anima pia lo registra, glielo fa sentire così, comunque anche abbassando il livello microfonico, compariva lo stesso, non so come definirlo, vabbè, Gianfranco l'ha definito già in un modo. Ok, dai. Vabbè, vi devo lasciare adesso, poi magari dopo, se non faccio troppo tardi, dopo la partita provo di nuovo, dai, che c'è più meno confusione. Dai, vi saluto, adesso vado a mangiare, guardo un po' di partita se ne vale la pena, se no poi magari rientro. Dai. Ciao a tutti, ciao Gianfranco, Natalino, Riccardino, Marco, per eventuali amici qua in ascolto sul canale 10. Ciao ciao. Ehi, Robè, spero di non aver ripreso assieme a qualcuno, visto un istante la portante l'avevo già premuto. Ehi, ciao Robè, sì, l'ho fatto anche adesso, poi casomai gli si dà un'occhiettina. Vai Gianfranco. Sì, confermo, quindi anche ho preso solamente, cioè proprio da lui. E adesso un tratto è stato quasi buono, poi ha ripreso, funziona, quindi c'è qualcosa magari che non sta andando bene, qualche condensatore o qualche soldatura fredda. Capita. Avanti, Natali, quindi stavi dicendo... mi sono dimenticato il nome del programma, ripeti, SDR Sharp. Ho capito, SDR Sharp. Ascolta, guarda su, c'è il tipico ingranaggio delle impostazioni, lo vedi su, dovrebbe essere, sto andando a memoria, su a sinistra. Mi avete chiamato, mi ero allontanato. Caldo, oggi veramente ho sofferto il caldo, guarda. No, non ti abbiamo chiamato, il coso dell'ingranaggio non lo vedo. C'è scritto configure. Aspetta, là, controlla il mio un attimino. Vediamo un po' se ci dice qualche cosa. Sì, oggi c'è a caldo, Marco, per carità del cielo, fino a 31 è anche qualcosa in più, 31 è movimento, quindi figurati usa la ferma. Eia. Poi vabbè, io lo soffro di mio, credo che sia una cosa leggermente ormonale comunque, quando ho mangiato prima mi è venuta questa caldana, una cosa allucinante, va bene. Insomma, Natali, non te ne va bene una, il satellite non niente da fare, la chiavetta niente da fare, ma pinnacciato ti hanno. E penso proprio di sì, aspetta un attimo che sto chiamando. Cazzo, il telefono qua si è lasciato. Quelli sono i vicini tuoi che ti stanno pinnacciando tutte le cose elettroniche. Sempre barabari, no? Ehi, Diego, scimmi, Natali. Ehi, davvero, mi stanno pindacciando tutto, boh, non me ne va bene una. Ascolta Natali, sempre in alto, a sinistra, dovresti avere questa scritta, se lo stesso programma, e penso di sì, SDR, V10, punto, eccetera, eccetera, trattino, RTL, trattino, SDR, tra parentesi R820T, se è quello classico. No, io c'ho SDR volume 00111 IQ in balance gain uguale 1000 phase uguale 0.000. No, non deve essere quello, il mio è l'ultima versione di SDR Sharp, l'ultima versione però, quella che decodifica anche tutto. Però è diverso. evidentemente. E comunque adesso con l'interfaccia non ce l'ho presente, ce lo puoi scaricare, è gratuito, è questo. Scrivo ultima versione SDR Sharp, così è. Sì, e ti manda su un sito dell'ISP, perché è fatto da loro, che è una fabbrica di chiavette. E poi vediamo un po' cosa succede. Questa chiavetta non c'aveva programmi suoi, no? Vai a trovarli. Allora. Interrogativo, queste chiavette devono avere qualche requisito particolare? Avevo sentito che certe erano più adatte, diciamo, a fare da ricevitore SDR, queste chiavette TV, radio TV, no? Allora, tutto dipende dal processore che hanno montato. Diciamo che un ascolto molto... alle basse frequenze sicuramente molto molto precario, alle alte si può usare per combinare qualcosa. Ad esempio io ne ho due qua, una è della come diavolo si chiama, Neo, insomma è quella canadese che fa chiavette, non costa caro, 35 euro. Ho dovuto prendere anche un amplificatore a bassissimo rumore, perché quello che avevo io a quanto pare non andava, è No Elec.com. E diciamo che va benino in HF, piglia goipi, quando ti avvicini alla banda, se non c'è un filtro per l'FM, per la stazione FM, che qua arrivano con qualche paio di kilowatt, la senti anche in 27, la radio che è su 88, 98 e così via, quindi selettività proprio, e queste sono quelle buone, c'hanno anche i filtri, figurati quelle normali. Sicuramente Natalino semplicemente c'è un problema di drive. E poi la cosa che dicevi tu, Marco, è dettata sicuramente dal processore che monta, perché non tutte sono compatibili. Sì, certe volte avevo sentito parlare di chip o microchip, forse alludevano a quello lì. Poi ci sono le vere e proprie chiavette o comunque unità SDR proprio specializzate, cioè non le chiavette TV e radio. I prezzi salgono un po', no? Aspetta, c'era un nome, come si chiamava quella notissima? Non mi vengono i nomi. Aspetta un attimo, Natalino, l'hai trovata quella che ti dico io? Dovrebbe essere sul sito ASP. Però quella risulta ultima, quella che c'ho io. Boh. Vediamo un po', guarda, quella più elaborata è più, c'è anche il tetra, figurati, anche il DMR, l'alta frequenza, la ricodificazione di tutti i toni, è questa, metti direttamente la versione, SDR, su Google come ricerca, SDR, non mi dimentico sempre il nome, già sono messo bene veramente, SDR Sharp,